Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Vedi Paoletto, tu sei buono, intelligente e anche bellino, ma furbo non lo sei. Adesso ti dico una cosa, il mondo è tondo e chi non sa stare a galla va a fondo, capito? Ricordalo. Aspetta che passo io. Ma papà, di qui non si può. Ma che ti importa se è direzione di tarda? C'è la guardia? No, e allora? Noi dobbiamo arrivare in orario a scuola. Fagli le corna a quel disgraziato. Va. Questo era un pessimo esempio da non seguire. Tognazzi, in un vecchio film, I mostri, spiegava al figlio come comportarsi in maniera furba nel traffico, violando tutte le regole, nel totale disprezzo degli altri automobilisti. È un paradosso, sembra un paradosso, ma sembra che in realtà una sorta di scuola di sopravvivenza stia avvenendo in molte città d'Italia, tesa a usare le regole come una cosa superflua, che non riguardano tutti, che riguardano soltanto le persone che in realtà non hanno la furbizia di saper usare al massimo quelle che sono le caratteristiche e le opportunità che dia una navigazione disinvolta nelle strade cittadine. Quante volte vi è capitato di trovare una macchina in doppia fila che non vi permette di entrare a casa, non vi permette di prendere la vostra macchina parcheggiata? Se voi abitaste nella città di Roma dovreste anche un cartello che vi fa irritare ancora di più, con un numero di telefono cellulare che dice telefona a questo numero, scusa, così vengo a spostare la macchina. Telefonate al numero, passano 5, 6, 7 minuti, scenderà una signora in tacchi a spillo o un giovane rampante da qualche ufficio lì vicino, non vi dice manco buongiorno, sposta la macchina e si infila al vostro posto. Questa è una maniera per svoltare la giornata, arrivare sotto l'ufficio, lasciare la macchina ovunque, tanto qualcuno prima o poi uscirà, chiamerà e quindi sparcheggia al suo posto. Ve la faccio ancora più pesante, più legata a mia esperienza personale. Immaginate di avere un parente con un handicap e avere un parcheggio riservato per poter parcheggiare vicino a casa. Ecco, immaginate, come è successo a me l'altra sera, arrivare alle 8:30 a casa con un figlio già abbastanza nervoso e trovare una bella macchina parcheggiata proprio il sabato sera alle 8:30 al tuo posto. Una bella macchina, nuova, la vedi, con tutte le caratteristiche, non di persona anziana, disattente, tutto lì, parcheggiata tranquillamente nel tuo posto. È la sera della movida, intorno a casa mia ci sono tante pizzerie, tanti ristoranti, pieni di bella gente, c'è la fila, tutti aspettano. Mi sono voluto prendere la briga, dopo aver girato a lungo, sanato l'ansia della persona che stava vicino a me, di vedere quanto tempo ci mettesse questa persona a portare via la macchina. Alla fine mi sono stancato, ma diciamo una staffetta da parte dell'altro mio figlio, fino all'1:30 di notte, quindi se ne era andato a mangiare, si era preso l'aperitivo, il caffè, la mazzacaffè, aveva fatto la passeggiatina e tranquillamente se n'era andata. Se quel posto fosse stato occupato da una persona con una disabilità di tipo fisico anche molto più grave, con una sedia a rotelle, cosa faceva? Aspettava lì 4 ore il sabato sera, aspettare che il signore si facesse la sua pizza? Io ho fatto quello che faccio sempre in questi casi, come mi accade spesso, ho fatto una foto con il mio smartphone della macchina, la targa ben visibile, e l'ho messa comunque via Twitter in tutti i miei social network. Non con intento punitivo, denigratorio e via dicendo, semplicemente per dire, guardate, io sto aspettando questo tolga la macchina. Non serve a nulla, me ne prendo tutte le responsabilità, probabilmente è una cosa che nemmeno si può fare, o perlomeno questa mattina vorrò capire. Però molte volte mi viene l'idea che noi in certe situazioni potremmo in qualche maniera segnalare qualcosa che va oltre le regole, qualcosa che ci impedisce di vivere serenamente, qualcosa che ci dà un grosso disagio, totalmente in maniera totalmente gratuita. Questo lo ha fatto, lo ha pensato il comandante dei Vigili di Roma. Il capo dei Vigili di Roma, Raffaele Clemente, lo stavamo cercando al telefono, forse lo avremo dalla sua viva voce, la fattispecie del suo atto. Ha detto un giorno, di fronte a tante proteste in una strada romana, che è sempre piena di macchine in seconda fila, perché è una famosa pasticceria, si chiama Pompi, dove fanno un tiramisù che probabilmente è molto legato al brand della pasticceria, tutti vanno da Pompi a prendersi il tiramisù, capito? Quindi lasciano le macchine in quarta fila, perché naturalmente chi se ne frega. Questo ha determinato che anche gli autobus avessero dovuto cambiare il percorso. Il comandante, non facendocela più, ha detto: mandatemi un tweet con le targhe delle macchine che occupano la strada e poi io telefonerò, vedrò. Questo naturalmente ha suscitato un'infinità di polemiche. Perché? Perché molti dicono, al di là degli aspetti e le fattispecie relative alla città di Roma, ma sai, non è possibile fare un atto del genere, viola la privacy delle persone. Ma esiste un margine in cui si possa in qualche maniera Arrogarsi il diritto di essere a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali e segnalare qualcosa che crea un grosso disagio. Ripeto, se siete un portatore d'handicap e trovate il vostro posto riservato occupato da una macchina e aspettate ore perché la macchina se ne vada, ma richiamate il carro attrezzi, ma è difficile farlo di notte, il sabato sera. Ecco, è vostro diritto, potete fare una foto e mandare un tweet a qualcuno che vi ascolti. Se delle macchine in seconda fila vi impediscono comunque di passare, bloccano il traffico, non entrate a casa, avete comunque un disagio gratuito, una persona che ha semplicemente la sfacciataggine di lasciare lì la macchina perché lui, per lui è naturale che qualcuno venga, gli telefoni e se la venga a spostare. Avete diritto di mandare un tweet 800240024. Avete mai pensato a questo? Ci sono gli automobilisti che sono nati per farti imbestialire, gli incapaci. Sono quelli che da dietro non vedi neanche la testa. Vedi solo due braccine abbarbicate al volante e vanno avanti in mezzo alla strada, piano. C'è verde, va, niente. Sono pieni di tic, controllano sempre se il freno a mano è tirato. Cazzo controlli, è 8 volte che controlli, non è tirato, sei tu che vai piano. Questo è Gioele di Xazelli che spiega alcuni luoghi comuni rispetto a chi intralcia il traffico, chi comunque ha delle condotte non proprio consone al libero scorrimento della circolazione, però non stiamo parlando di cose ben più precise. Mi vorrei porre innanzitutto un problema proprio di opportunità di tipo giuridico, perlomeno avere un parere a una persona che di queste materie se ne occupa moltissimo. Quindi sento Andrea Rossetti. Buongiorno Andrea. Buongiorno, ciao a tutti. Professore di filosofia del diritto, docente di informatica giuridica all'Università di Milano Bicocca. A naso, così, senza entrare nelle specifiche del codice, ti sembra una cosa plausibile o accettabile che in una situazione di grave crisi, io ti parlo della persona che ha il parcheggio per l'handicap occupato o della persona che deve comunque cambiare la sua vita perché qualcuno lascia una macchina in doppia fila, potrebbe essere messo in atto un sistema di, non voglio dire delazione, ma di segnalazione comunque a qualcuno che in quel momento c'è un'infrazione che crea un pubblico disagio? No, direi che dal punto di vista giuridico purtroppo direi proprio di no, perché chi può fare queste segnalazioni sono coloro che sono designati dalla legge per farlo. Il rischio ovviamente è quello di avere segnalazioni che non siano veritiere. Anche a me spesso, devo dire, viene la tentazione di segnalare soprattutto gli studenti, e mi spiace dirlo, della mia università, che spesso parcheggiano nei posti riservati agli handicappati anche quando in realtà ci sono altri posti liberi. Però dal punto di vista giuridico c'è sicuramente un problema di violazione della privacy in primo luogo, e poi c'è un problema anche di veridicità, no? Io devo essere in grado di capire se la segnalazione che è fatta è vera. Io non sono un pubblico ufficiale, quindi non sono in grado di dare questa garanzia giuridica, purtroppo, ripeto. Quindi diciamo, se fosse possibile attivare un sistema di filtraggio, tipo che le segnalazioni non è che vanno immediatamente pubblicate in un profilo pubblico e tutti le vedono e quindi c'è una sorta di pubblica gogna, ma arrivino a un primo livello di attenzione, quindi arrivino, immagino, al comando dei vigili alcune segnalazioni, i vigili possono verificare la targa e cercare comunque il proprietario o tenere conto di questa cosa, o anche questo è un passaggio ancora molto poco probabile. Allora, una cosa analoga si può fare, nel senso che quando io trovo il mio posto occupato o il mio passato carrabile ostruito, posso telefonare alla polizia. È comunque la polizia che deve rilevare l'infrazione, questo è il punto. Certo, si potrebbe pensare comunque di mettere a punto un sistema che segnala le forze dell'ordine eventuali appunto infrazioni, ma ci deve essere l'effettiva uscita dell'ufficiale, di colui che è designato dalla legge per rilevare l'infrazione. Noi cittadini non possiamo farlo. Allora, fermati un attimo Andrea, ci sono già subito le telefonate. Anna, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io volevo proprio intervenire su questa cosa. Anche io abito nella zona a Milano, nella zona movida, e il venerdì e il sabato qui è un delirio, cioè o arrivi alle 6:30 e così puoi parcheggiare tranquillamente, ma dopo le 18:30 praticamente qui non trovi assolutamente parcheggio. Beh, questo è l'altro problema, è la scarsità di parcheggi, è un problema che riguarda la municipalità. La scarsità di parcheggio, ok, io sono residente, quindi ho la zona, ho il posto, eccetera eccetera. No, ma non solo quello, ma me la mettono anche davanti al portone. Ecco, questo è però il caso di interesse. Anna, lei sarebbe Gli verrebbe mai la tentazione di fare una foto con la macchina e mandarla a qualcuno perché provvedesse, o perlomeno metterla su una pubblica bacheca, dice, così tutti vedono quanto sei incivile? Guardi Nicoletti, ho fatto di più, io ho chiamato la polizia, i vigili, una sera sono stato praticamente due ore ad aspettare il vigile, arriva una vigilessa e mi dice, ma signora, ma cosa vuole, la vuol parcheggiare sotto casa, ma si faccia il giro dell'isolato. Vabbè, ho capito, situazione, la macchina però le occupava il portone o semplicemente... Mi occupava il portone nonché la zona residente, ho trovato un posto nel carico e scarico, perché ci sono appunto ristoranti, bar, cinema e quant'altro, l'ho messa lì la domenica mattina, ho trovato la multa. Questo è un increscioso caso. Che cosa farebbe Nicoletti a quel punto? Non fare niente, ecco, già ho abbastanza. Ho dovuto pagare la multa. Sì, però un altro problema, noi adesso andiamo su una cosa molto specifica, non è la mancanza di parcheggi, di fronte a un atto di pubblica inciviltà, fino a che punto il cittadino prendersi il diritto di arrogarsi appunto il ruolo di chi segnala questa cosa. Marta, buongiorno. Magari sentite un po' lontano perché sono in viva voce in macchina. Allora, male. Io sono una arrabbiata perché ho la mamma che è portatrice di handicap e praticamente ho provato varie cose, dal cartello, se vuoi il mio posto prenditi l'handicap. Sì, vabbè, ormai mi fa ridere. Non è queste menate qua, e alla fine mi sono decisa, tutte le volte io abito davanti a una farmacia che vedo qualcuno posteggiato lì, io prendo e telefono ai vigili. Purtroppo i vigili del paese dove abito, nell'inter del Milanese, sono molto pochi, quindi mi hanno risposto praticamente tutte le volte che loro non possono uscire tutte le volte che c'è la segnalazione, sanno che c'è questo problema, cercheranno di passare, ma naturalmente poi tu hai un po' le mani legate. Questo è chiaro, quindi questo è chiaro. Ho capito, Marta, quello che volevo dire con Andrea, capisci che l'idea che noi volevamo questa mattina cercare di abbozzare è se potesse esistere una rete alternativa rispetto a quella fisica dei vigili, perché pensa se ogni signora segnalasse la macchina in doppia fila davanti al portone, la macchina che occupa il parcheggio riservato o la macchina semplicemente che prende i parcheggi residenziali, non basterebbe, ci vorrebbero tanti vigili più o meno quanti cittadini. Ma diciamo le frontiere più avanzate dell'informatica, della possibilità di condivisione veloce, non posso secondo te sfondare questa barriera e trovare una maniera, non dico di segnalazione, ma anche di azione più diretta? La domanda te la pongo, ma risponderai fra un istante dopo l'informazione del tempo. 800240024, sarà mai possibile la social dell'azione attraverso lo smartphone? Ettore, buongiorno. C'è Ettore? Sì, sono qua. Sì. Allora, lodevole l'iniziativa anche del sindaco di Roma, ma... Il capo dei vigili, paura, non è il sindaco va in bicicletta, altri problemi. Ho paura che le nostre parole si limitino alle 13 di oggi, spiego anche perché. Una zona che lei certamente conosce, Gregorio VII, c'è anche lì un'ottima pasticceria, il Pappagallo, sempre le macchine in seconda fila, ma quelle in terza fila sono spesso quelle dei vigili della polizia locale o della polizia stradale. Beh, saranno lì per fare le contravvenzioni a quelle in seconda fila. No. Essendo io un frequentatore della pasticceria, vanno a prendere i cornetti anche loro. Vanno a prendere i cornetti. Certo, a Roma vedo che c'è una lacrità che gira veloce. Tutte le pasticcerie, ne ho anche una, via L'Angelico, vicino a casa, che c'è sempre la fila. Le pasticcerie sono dei luoghi di aggregazione costante, creando dei problemi sul traffico. Poi quella domanda che avevo fatto ad Andrea Rossetti, professore di informatica giuridica alla Bicocca. Andrea, sarà mai possibile in un futuro in cui tutto il diritto sarà rivisto, reinterpretato, riletto, stanno facendo sui campi più vasti e loscibile, che possa cominciare a essere pensata una cosa del genere, una rete del genere, cautelata e in piena sicurezza rispetto alla delazione finta, alla presa in giro, all'atto infame, cioè senza che il cittadino diventi un vigilante, perché così non può essere. Un sistema, non voglio dire controllo, che la parola è altrettanto brutta, ma usare questi strumenti che abbiamo in mano per dare una mano, se possibile, all'impossibilità di essere ovunque da parte delle forze dell'ordine. Beh, come giusto giustamente detto tu, non è più un problema tecnologico, no? Perché io posso scattare una fotografia geolocalizzata e quindi posso anche, insomma, con ragionevole certezza verificare il posto, l'ora, il luogo in cui è stata scattata. E soprattutto certificare chi sono io, non è anonima, non è una denuncia anonima. No, certo, posso mandarla come sono io, posso avere un metodo di certificazione, poi sono connesso col cellulare, francamente non ce n'è neanche bisogno, no? Perché il cellulare riconduce immediatamente la mia identità. Il problema è proprio giuridico, cioè vanno modificate le leggi. Il rischio però è quello che dici tu, cioè trasformare ogni singolo cittadino in una specie di vigilante. Ma non diventa il cittadino in certe occasioni un pubblico ufficiale a tutti gli effetti? Se io vedo nell'atto di un crimine, io posso intervenire, perché in quelle feste non c'è nessun altro, divento io un pubblico ufficiale. Però è un crimine, no? Non è un mero atto illecito come una multa. Quindi è un atto... con determinate peraltro limitazioni molto pesanti, no? Perché ad esempio anche qui non è chiarissimo se io possa davvero fermare quello che mi ha borseggiato nel momento in cui ho recuperato ad esempio il mio portafoglio. In alcuni casi sono scattate un po' insensate però denunce di sequestro da parte di colui che era... Certo, poi è chiaro, uno si difende con gli avvocati, quindi, figuriamoci. È chiaro, no, che la cosa è davvero complicata. Quello che serve è effettivamente una riforma del diritto, cioè che permette di studiare, di utilizzare queste tecnologie e fare in modo che quello che io produco tramite queste tecnologie abbia valore giuridico, sia giuridicamente rilevante. Io attualmente non vedo nessuna prospettiva, perché infatti alla proposta il comandante dei Vigili, che l'ha fatto penso più per una provocazione, perché non credo che abbia una rete così raffinata al Comune di Roma da poter gestire anche gli sms, ha detto: beh, mandatemi mandatemi un Twitter di determinata targa, poi li chiamo io di fronte a un'emergenza. Subito sono insorti i sindacati dicendo: non è possibile, la violazione deve essere certificata da un agente. Questo è logico, è chiaro. È questo, sì, non è semplicemente un problema sindacale, quindi è proprio un problema giuridico. Insomma, in uno stato di diritto come il nostro, chi può esercitare il potere è unicamente colui che è indicato dalla legge, e in questo caso appunto un pubblico ufficiale. Sentiamo Mario. Mario, buongiorno. Mario. Pronto? Eccomi. Sì, io abito in una zona dove ci sono parecchi posti riservati ai portatori di handicap. È successo che una sera, abito a Milano, è successo che una sera mio parente non riusciva a parcheggiare, dunque lui è su una sedia a rotelle e la macchina l'abbiamo dovuto lasciare noi in doppia fila. Fino a che uno dei posti si liberasse. Questo signore che aveva parcheggiato quest'auto, tra l'altro la vedevo da parecchi giorni, cioè puntualmente parcheggiava nel posto riservato, il carro attrezzi non l'ho chiamato io, l'ha chiamato lui. E quindi? Ha chiamato lui per la vostra macchina, lo so, ma lo sapete, in questo caso mi è toccato anche a me. Se io lascio la macchina in seconda fila e impedisco alla persona che mi occupa, perché gli ho tagliato le quattro gomme, ecco. Questa è una soluzione che non posso certo avvallare. Mi stanno arrivando telefonate: usate il chiodo, usate il cacciavite, usate di sbrigargli la portiera. È chiaro che entriamo negli atti illeciti che non sono giustificati comunque da uno sgradevole e vergognoso atto di ingiustizia sociale come quella di occupare il posto di un handicappato. Simone. Buongiorno, sì. Buongiorno Nicoletti. Volevo intervenire raccontando un attimo la mia esperienza brevissimamente. Io ho abitato fino a 29 anni in pieno centro a Milano, vicino ai Navigli, quindi una zona molto trafficata che tutti più o meno conoscono. Poi ho fatto una scelta personale e mi sono trasferito in aperta campagna. Adesso vivo in una cascina ai margini del bosco, quindi proprio in una situazione diametralmente opposta. E però uno dei motivi per cui me ne sono andato a Milano era anche tutta questa serie di atteggiamenti che lei ha raccontato su Roma, ma che poi si riscontra nelle grandi città, un po' di menefreghismo, di arrivismo, parcheggio dove voglio, eccetera eccetera, no? La cosa triste che volevo raccontare è che da 5 anni io vivo in campagna, quindi spesso mi trovo a viaggiare in paesini piccoli e sto notando che anche in questi posti cominciano a realizzarsi, a verificarsi degli atteggiamenti simili di mamme che sono ossessionate dall'idea di parcheggiare davanti alla scuola per far scendere o far salire il figlio che entra e esce la scuola, no? E in questo senso io credo che gli atteggiamenti che lei ha descritto stamattina, e che tra l'altro mi fa ridere perché anch'io fotografo sempre la macchina parcheggiata nel posto dei disabili eccetera, e poi condivido queste foto, quindi non siamo in pochi, forse varrebbe la pena di rifletterci, credo che siano un po' espressione di un malessere della società in cui stiamo vivendo e verso cui stiamo andando. E a questo punto, se posso un secondo, una frase che lei ha detto prima: è giusto mettere alla pubblica gogna queste persone. È un po' un controsenso, nel senso che queste persone violano i diritti di altre persone, queste persone violano la legge, queste persone in qualche modo impongono il loro arrivismo, la loro prepotenza, e noi che invece ci comportiamo correttamente e diamo rispetto e di conseguenza esigiamo rispetto, come è giusto che sia in una società, poi abbiamo le mani legate per il rispetto della privacy. Il rispetto della privacy vuol dire che non entri in casa mia, non ascolti le mie telefonate, non mi non è un problema di interesse interessante. Allora, al di là dell'aspetto giuridico, rigiro la domanda ad Andrea Rossetti. Questo problema fu posto riguardo ai parcheggi dell'handicap. L'idea della gogna mediatica, cioè dici, benissimo, non ti faccio niente, non ti posso fare la multa, però ti sputtano. Faccio vedere al mondo che tu in questo momento sei talmente infame da mettere la macchina, crea un disagio soprattutto alle categorie molto deboli come i portatori di handicap. Questo comunque rientra comunque in un atteggiamento non condivisibile, mi sembra, Andrea, comunque. È un atteggiamento che non è legittimo, però ad esempio una delle sanzioni che si potrebbero pensare di combinare modificando la legge è proprio questa, no? Tu quando occupi il posteggio di un handicappato e c'è una foto, io pubblico la tua foto, o meglio io giudico. Io lo faccio puntualmente, me ne prendo la responsabilità, sono pronto a rispondere. No, attenzione, però perché deve essere giuridico il posteggio, no? Il giudice come sanzione fa sì che la foto venga pubblicata sul giornale locale piuttosto che su un grande giornale, a spese ovviamente di colui che è stato, che ha commesso. Benissimo, si fa la pagina il giovedì. Le targhe degli stronzi di questa città, e si mettono tutti in fila quelli che mettono le macchine che non permettono ai portatori di handicap o altre persone di usare licitamente i loro parcheggi. Grazie Andrea Rossetti, a domani.